Letture di Radio 24. Nonostante la crisi abbia portato ad una contrazione dei consumi, c'è un settore che registra invece una continua crescita. È quello del tax-free shopping, che offre la possibilità agli stranieri non residenti di recuperare l'IVA pagata sui beni acquistati in Italia. Un settore che, come rivela un'indagine realizzata da Global Blue, ha segnato tra gennaio e settembre dello scorso anno un incremento del 31% rispetto all'anno precedente. I dati Global Blue rivelano anche un altro interessante aspetto, ovvero la crescente importanza che stanno acquisendo gli outlet nello shopping dei turisti extraeuropei in vacanza in Italia. Questo canale di distribuzione è sempre più gettonato per lo shopping di lusso e quindi i grandi marchi della moda decidono di investire in questo comparto, che consente loro di incrementare sia il volume delle vendite sia la loro base clienti. Gli outlet, infatti, a settembre 2011 hanno fatto registrare una crescita delle vendite del 57% e attualmente sono giunti a rappresentare il 10% circa del comparto del tax-free shopping, in aumento del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2010. Questo risultato, estremamente positivo, è stato raggiunto sicuramente grazie ai russi e ai cinesi, che rappresentano il 50% degli acquisti effettuati negli outlet. I primi, infatti, nonostante il loro scontrino medio sia diminuito di 1,71 punti percentuali, realizzano da soli quasi il 33% delle vendite negli outlet, in aumento del 62% rispetto all'anno precedente. I cinesi, che continuano a presentare ritmi di crescita molto elevati nel comparto del tax-free shopping, con un incoraggiante più 87,8% nei primi 9 mesi dell'anno, si trovano in seconda posizione e rappresentano il 17,8% delle vendite, con uno scontrino medio di 483 euro. Al terzo posto ci sono i turisti coreani, al quarto i giapponesi, che continuano a scegliere gli outlet per il loro shopping e detengono una quota del 4,1%. Tuttavia, la percentuale di crescita dei turisti del Sollevante è la più bassa insieme a quella dei turisti americani. Probabilmente stanno ancora risentendo i primi degli effetti del recente terremoto che ha sconvolto il Giappone e i secondi del perdurare della difficile situazione economica in cui versano gli USA. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Gli outlet e il tax free shopping dal numero 18 della rivista Pan Bianco Week. A New York sono sempre più diffusi i farmers market, i mercati dove i contadini vendono direttamente i loro prodotti. Ce ne sono più di 50 e negli ultimi tempi hanno iniziato a differenziarsi. Anche gli abitanti di una città frenetica come questa hanno imparato quanto la freschezza e la varietà dei cibi acquistati direttamente dalle mani dei produttori facciano la differenza. E oggi perfino i turisti possono andare alla scoperta della grande mela programmando un itinerario attraverso i suoi mercati. Grazie alla guida e al blog Markets of New York City di Karen Seeger, che ci spiega: ho visitato moltissimi farmers markets e ciò che mi ha più colpita è come ognuno si sia adattato al quartiere che lo ospita. Puoi trovare più di una dozzina di peperoncini diversi nei quartieri ispanici e caraibici o un'ampia selezione di cipolle, cavoli e salsicce nel mercato di Williamsburg, quartiere dalla forte identità polacca. Il mercato di Union Square sorge su un parco di circa 16.000 metri quadri, di cui circa 6.000 occupati dal mercato, ed è una vetrina per una produzione che si estende su circa 4.800 ettari di terra. Ma non è sempre stato così. Il mercato ha ridato vita al quartiere. Spiega David Hughes. A metà degli anni 70 Union Square era una zona di spaccio di droga. Oggi invece al parco vengono i bambini a giocare, gli impiegati nella pausa pranzo, le mamme. E intorno alla piazza sono spuntati ristoranti e negozi biologici, centri per lo yoga e lo sport. Da una decina di produttori si è passati a quasi 150, tutti accomunati dal concetto di produzione diretta. I contadini, pescatori, raccoglitori, artigiani che fanno parte del Green Market Program appartengono a un'area di produzione di 250 miglia intorno alla città di New York. Di questi, meno del 10% sono certificati come biologici. 10 anni fa erano molti di più, ma oggi molti rinunciano a causa dei costi della certificazione, oppure perché non credono più negli standard, ormai diventati parte di un business. I contadini continuano a trattare i loro prodotti nello stesso modo, ma non possono chiamarli bio. Utilizzano parole come agricoltura non convenzionale oppure naturale, ma la maggior parte evita ogni definizione e punta a instaurare un rapporto di fiducia con i propri clienti. A New York, oltre ai mercati dei contadini, si stanno diffondendo i Food Purveyors Markets, i mercati del cibo, dove accanto a frutta e verdura puoi trovare la pasticceria Kevin Landreth con i suoi dolci in miniatura, oppure Red Hook Lobster Pound, venditori di gamberetti e aragoste serviti su crostoni di pane, tra una foglia di insalata e una fettina di limone. Oltre ai bellissimi luoghi stanziali, il Chelsea Market e il Grand Central Market, ce ne sono alcuni che sfruttano il periodo estivo per stuzzicare l'appetito dei newyorkesi. Ad esempio, il New Amsterdam Market verso il porto, dove una volta sorgeva il mercato del pesce. E Smorgasburg a Brooklyn, che affacciato sull'East River, gode del panorama dei grattacieli di Manhattan. In questi mercati si può trovare di tutto. Produttori di vino locale, una catena di panetterie che promuove l'impiego di donne immigrate, venditori di uova di quaglia e gallina allevate libere, una linea di marmellate e gelatine di frutti di bosco raccolti a mano, ma anche i banchi di chef che stanno per aprire un ristorante e si fanno pubblicità con qualche assaggio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Chiara Ugolini, Metropoli di stagione, dal numero 52 della rivista Slow Food. A 18 anni dal genocidio del Ruanda arriva una sentenza che ribalta le tesi finora sostenute sulla genesi del massacro. A lanciare un razzo contro l'aereo del presidente, scatenando la reazione degli Hutu che portò allo sterminio di 800.000 persone, non furono i Tutsi, come la Francia ha sempre sostenuto, bensì le frange estremiste degli stessi Hutu, in cerca di un pretesto per una pulizia etnica contro i loro nemici storici. La verità ora c'è ed è giudiziaria. Scritta dagli esperti balistici ingaggiati da un giudice francese, Marc Trevidic. Dunque, il razzo che il 6 aprile 1994 fece precipitare il Falcon su cui viaggiava il presidente ruandese Juvenal Habyarimana in fase di atterraggio a Kigali fu lanciato dal campo della guardia presidenziale. Poiché quell'attentato scatenò e fornì il pretesto al sanguinario sibaritismo degli squadroni della morte Hutu per uccidere i fratelli nemici Tutsi, la storia di questo sterminio, le vittime e gli assassini diventano definitivi nei loro tragici ruoli. Le fazioni estremiste degli Hutu pianificarono il complotto per regolare i conti infami della pulizia etnica. Il genocidio ruandese ha i colpevoli, che sono quelli, seppure in minima parte, giudicati dal Tribunale Internazionale di Arusha. Ebbene, per 18 anni la Francia ha ostinatamente difeso e costruito nelle procure e sui giornali un'altra versione. A lanciare i razzi da una collina diversa furono gli stessi Tutsi. Un giudice francese, Jean-Louis Bruguière, accusò ed emise mandati di cattura contro il capo della ribellione Tutsi, ora presidente ruandese, Paul Kagame, e i suoi principali collaboratori, sospettati di aver ordito un mostruoso autogenocidio. Consegnarono volontariamente i loro fratelli in Ruanda al coltello dei carnefici, prezzo cinicamente basso che volevano pagare per poter sfruttare politicamente la rendita del genocidio e conquistare il potere. Il sogno della grande patria Tutsi valeva 800.000 morti. La Francia, di destra e di sinistra, ha difeso se stessa, la dedizione cieca alle glorie e ai sudici traffici della France-Afrique, al complesso di Fashoda, ovvero all'ossessione di vedere rosa la propria sciupata grandeur dai dannati anglosassoni. Parigi appoggiava gli Hutu, dietro i Tutsi ribelli c'era l'America. In 18 anni le rivelazioni, clamorose e false, si sono moltiplicate fino a formare un labirinto minotaurico in cui tutti si sono perduti. E quel giudice regolarmente le assorbiva nei suoi faldoni e metteva mandati di cattura planetari. Un eroe nazionale, lo consideravano, ministri e giornali, un implacabile mastino della verità. Quella scomoda, capace di braccare quegli africani selvaggi e mentitori. Bravo! E così fu scoperta una scatola nera a New York, che in realtà non era del Falcon, ma di un altro aereo francese. E poi due lanciarazzi che sarebbero stati trovati dai militari Hutu, ma che saltarono fuori, stranamente, solo 2 anni dopo. Messaggi in codice con gli ordini per l'attentato che poi risultarono falsi, confezionati da un operatore addestrato alle tecniche della disinformazione dai militari francesi. Perfino il testimone principale del teorema, Bruguière, ha ritrattato. Aveva confessato, disse, in cambio di un visto per l'Europa. Ma se i Tutsi erano colpevoli, allora la Francia era innocente, la Francia che aveva armato e addestrato fino all'ultimo i soldati Hutu, efficientissimi nella carneficina fratricida, ma incapaci di resistere ai Tutsi vendicatori. Invece fu un genocidio preparato e realizzato sotto gli occhi della Francia. C'è un rischio ora, che le conclusioni dell'inchiesta servano a cancellare l'altra parte dell'infamia, ovvero il massacro per la vendetta. Ci fa paura chiamare genocidio anche questo, degli Hutu fuggiaschi, braccati nelle foreste del Congo. Questo perpetrato sotto l'ala di un altro silenzio, della comunità internazionale intera, che per la vergogna di non aver impedito il primo, non ebbe il coraggio e l'autorità di impedire alle vittime di diventare assassini. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Domenico Quirico, Genocidio in Ruanda, il primo colpo dagli Hutu, dalla stampa del 16 gennaio.